perfetto giorno di Simone Spezia. Le piogge torrenziali colpiscono Sicilia e Calabria, allagamenti, strade sprofondate, smottamenti, un torrente esonda e travolge un'auto, una vittima. E si scava ancora tra le macerie dell'hotel Rigopiano in Abruzzo, ancora famiglie isolate, 6.500 il numero di utenze elettriche distaccate, ma ormai da 7 giorni. Intanto fa discutere l'allarme della Commissione Grandi Rischi su un possibile forte sisma, allerta sulle dighe, proteste dai sindaci. Il presidente dell'INPS Boeri attacca il governo, con la manovra cresce il debito, si scaricano gli oneri sulle generazioni future. Forte balzo di Generali in borsa che guadagna oltre il 6%, voci di stampa su un interesse di Intesa San Paolo e Allianz per la compagnia triestina. Siria si tenta un accordo anche con le opposizioni, partono da Astana i colloqui di pace, ma non ci saranno confronti diretti tra governo e ribelli. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque l'ondata di maltempo che ha investito il sud. Violenti temporali accompagnati da vento forte stanno interessando gran parte della Calabria, colpendo soprattutto il Reggino. Alcune persone che abitano in frazione di Melito Porto Salvo sono state evacuate a scopo precauzionale dopo che la fiumara Tuccio ha rotto un argine mettendo a rischio alcune abitazioni. Sorvegliato speciale il fiume Budello a Gioia Tauro, un tratto della circonvallazione di Girifalco nel Catanzarese è sprofondato per una frana. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Molte le scuole chiuse, come in Sicilia, altra regione particolarmente colpita dalle forti piogge e dove un uomo, un pensionato di 67 anni, è morto nel Palermitano, travolto da un torrente nella zona di Castronovo. Le 3 persone che erano in auto con lui sono invece riuscite a salvarsi. A Catania l'esondazione di un torrente ha allagato alcune aree della zona industriale. E piogge torrenziali e forti venti hanno creato disagi anche nelle province di Agrigento, Messina e Trapani, così come alle isole Eolie. Infine disagi si registrano anche in Sardegna. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è proprio sulla situazione in Sardegna, forse un po' sottovalutata nelle ultime ore, che andiamo adesso con Donatella Spano, assessore alla difesa dell'ambiente della regione. Buongiorno assessore, benvenuta. Buongiorno. Allora, qual è il quadro della situazione da voi? Ma la situazione è decisamente migliorata, abbiamo ancora un codice giallo sulla zona nord-orientale, Gallura. Sostanzialmente, quindi, però insomma la situazione è decisamente migliorata. Danni parecchi perché noi abbiamo avuto una nevicata eccezionale e successivamente un'ondata di piogge e di vento di burrasca per tutta la parte meridionale della Sardegna, che naturalmente ha esacerbato una situazione già difficile. Abbiamo lavorato duro, i danni sono prevalentemente al patrimonio zootecnico, tutte le risorse agricole. E poi naturalmente si stanno facendo le verifiche per quanto riguarda gli edifici pubblici e la parte di abitazioni private che hanno subito danni proprio per il vento di burrasca. La ringrazio, grazie a Donatella Spano, assessore alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna. Il quadro invece dall'Abruzzo e dall'hotel Rigopiano, dove si continua a lavorare, con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, e così si continua a scavare senza sosta tra le macerie dell'albergo. Non si spegne la speranza di trovare altri superstiti. I vigili del fuoco, uomini della protezione civile e del soccorso alpino stanno esplorando i locali investiti dalla valanga, cercando di aprire varchi attraverso i muri. L'ipotesi è che alcune persone potrebbero essersi rifugiate in una parte della struttura ancora non raggiunta. Siamo, intanto lo ricordiamo, al 5° giorno di ricerca. Il bilancio provvisorio è di 11 sopravvissuti, 6 vittime, 23 dispersi mentre sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara i primi superstiti. Si tratta dei due fidanzati Vincenzo Forti e Giorgia Galassi, che erano arrivati nella struttura sanitaria nella notte tra venerdì e sabato. I quattro bambini salvati invece potrebbero essere dimessi in giornata. Intanto prosegue il lavoro comune di istituzioni, di tecnici dell'Enel per ristabilire la normale fornitura di energia elettrica. Le utenze ancora disalimentate nel Teramano sono scese in una giornata da 11.000 a 6.500, localizzate in 30 centri sparpagliati sul territorio e difficilmente raggiungibili. Il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, della regione Abruzzo, punta il dito contro l'Enel e su come avrebbe speso i 50 milioni di euro investiti sulla carta, dice, nel 2016 per la manutenzione della rete. Per ora è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Mentre si scava, già si indaga. Dunque il punto sull'inchiesta. Una catena di equivoci e poi di ritardi che, unita alla straordinarietà degli eventi, avrebbe contribuito a causare la sciagura del Ricopiano, un albergo già di per sé costruito su colate di detriti e valanghe, a quanto rivela la mappa geomorfologica. Il documento è stato acquisito agli atti in uno dei filoni dell'inchiesta della Procura di Pescara, che prosegue ad ascoltare superstiti, rappresentanti delle istituzioni e persone a vario grado entrate in quest'ultimo capitolo della storia del resort divenuto trappola. I magistrati, se da una parte lavorano a ricostruire cosa sia successo subito prima e subito dopo la valanga, dall'altra però vanno anche indietro nel tempo per verificare, come anticipava già a storiacce il procuratore Cristina Tedeschini, se quell'hotel potesse sorgere lì. L'ultimo tema di indagine riguarda gli interrogativi intorno all'esistenza fisica di quell'albergo lì, in piena zona parco, in un luogo per l'appunto montuoso, piuttosto impervio, con problemi di neve. E anche considerata la sua posizione, il 18 l'hotel andava evacuato, visto che già quattro giorni prima era stata diramata l'allerta valanghe? E poi, il sistema ha funzionato o c'è stata una catena di equivoci? Il primo potrebbe essersi consumato alle 17.40 del 18 gennaio, quando la prefettura telefona al direttore dell'hotel, Bruno Di Tommaso, lo stesso che aveva inviato poco prima una mail per sollecitare l'invio di mezzi per liberare la strada dopo le scosse. Ma in quel momento il direttore si trovava a Pescara, così quando dopo richiama Quirino Marcella, amico del sopravvissuto, non viene creduto, ma a quel punto l'hotel era già diventato una trappola di ghiaccio. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto la Commissione Grandi Rischi lancia un allarme per un possibile nuovo sisma forte, e allarme che si concentra anche sulle dighe. Sentiamo. L'allarme della Commissione Grandi Rischi sulle dighe del centro Italia alimenta preoccupazioni ma anche polemiche. Per valutare la situazione, il ministro delle Infrastrutture Del Rio nel pomeriggio incontrerà i rappresentanti della Protezione Civile, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, delle regioni interessate e dei gestori degli impianti. C'è un rischio vaionta, ha messo in guardia ieri il presidente della Grandi Rischi Bertolucci, riferendosi in particolare al lago di Campotosto, il secondo bacino artificiale d'Europa con tre dighe, una delle quali costruita proprio su una faglia che si è in parte riattivata dopo gli ultimi terremoti. Un allarme giudicato da alcuni eccessivo e poi in qualche modo ridimensionato dallo stesso Bertolucci. Il fatto che con questo terremoto si sono mosse delle faglie e ci sia la possibilità di distacco di frane è continuamente monitorato, e per ora non ci sono elementi per dire che ci sono quantità sufficienti di materiale di roccia che possano provocare effetti vaionte. Le parole di Bertolucci hanno però allarmato gli abitanti della zona. Per precauzione, a Leonessa le scuole sono state chiuse sine die, mentre nei prossimi giorni il lago verrà in parte svuotato per alleggerire la pressione dell'acqua sulle dighe. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo in linea per chiudere questo capitolo che riguarda il maltempo e anche il terremoto, in particolare il maltempo, con Antonio Paladino, che è il dirigente del servizio di emergenza della Protezione Civile della Regione Sicilia. Paladino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dà un quadro rapido della situazione da voi? Dunque, la situazione da noi è che stiamo uscendo da tutte le criticità che hanno interessato la Sicilia nella giornata di ieri, di stanotte, e le condizioni del tempo fortunatamente sono migliorate, per cui stiamo monitorando tutto quello che riguarda il disco idraulico, le sondazioni dei torrenti, e stiamo risolvendo tutti i problemi legati alle criticità della rete viaria. Quindi li state risolvendo in questi minuti, però ci sono ancora strade interrotte, immagino, sì? Sì, qualche criticità l'abbiamo, ma di più abbiamo problemi legati al fatto, agli allegamenti che si sono verificati. E per ora, in particolare nella zona di Siracusa, abbiamo una serie di esondazioni che stiamo controllando. La ringrazio, grazie ad Antonio Paladino, dirigente del servizio di emergenza della protezione civile della regione Sicilia. Dunque cambiamo argomento e ci occupiamo di economia adesso, di finanza nella fattispecie, a partire da Generali, che secondo indiscrezioni di stampa sarebbe nel mirino di Intesa San Paolo e Allianz. Il titolo considerato guadagna in questo momento il 6,64%. Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno, dici buongiorno, cosa buongiorno. Succede Andrea? Beh, succede che il mercato ha iniziato subito a posizionarsi su queste indiscrezioni che non hanno trovato commenti, per esempio dal presidente di Intesa San Paolo, che questa mattina in un appuntamento pubblico ha preferito evitare valutazioni su questa indiscrezione, che vorrebbe un ingresso importante nell'azionariato delle Generali da parte di Intesa San Paolo, con un ruolo industriale che potrebbe essere rivestito dal gruppo tedesco assicurativo Allianz, che potrebbe eventualmente rilevare alcune attività, soprattutto all'estero, delle Generali. Questa arriva in una fase di movimento dell'azionariato delle Generali, perché c'è stato anche recentemente il rafforzamento di Francesco Gaetano Caltagirone al 3,5%, e perché Mediobanca da tempo sembra pronta a scendere sotto la quota attuale del 13% per portarsi almeno intorno al 10% secondo il piano industriale previsto, o anche di sotto a questa soglia. Gli acquisti hanno visto le Generali molto scambiate, è passato già di mano l'1,3% del capitale, che è molto per un titolo come quello di Trieste, che nell'ultimo mese per esempio ha scambi intorno allo 0,5% del capitale, quindi già doppio rispetto alla media dell'ultimo mese. Ma oltre alle Generali, che guadagna in questo momento quasi il 7%, è salita anche Mediobanca, il suo primo azionista, che sale del 2,2%, mentre i titoli dei gruppi che sarebbero coinvolti, diciamo così, con un ruolo attivo di acquirente, cioè Intesa San Paolo e Allianz Francoforte, sono deboli. Intesa perde oltre il 2%, mentre Allianz perde l'1%. Secondo gli analisti questa operazione è di difficile lettura e di, diciamo così, poco credibile, almeno in questa fase, soprattutto perché si tratterebbe di un'operazione al di fuori di quelle che sono le strategie dichiarate di Intesa San Paolo, che ha sempre voluto dichiarare di voler crescere anche per linee esterne, ma all'estero e su settori come quello del risparmio gestito, non in Italia, nell'assicurativo. E non quello assicurativo. Ti ringrazio Andrea Fontana, che ritroveremo poi alle 13.30 per l'appuntamento sui mercati, per avere un quadro un po' più generale di borsa. Passiamo alla Francia, o meglio no, scusate, restiamo sull'economia e andiamo a Tutto Pensioni del Sole 24 Ore, dove oggi ha parlato il presidente dell'INPS Boeri ed è stato durissimo col governo. Stringono i tempi per la riforma delle pensioni contenuta nella legge di stabilità e il presidente dell'INPS Boeri attacca, aumenta il debito pensionistico implicito, scarica gli oneri sulle generazioni future e apre a nuovi tagli. Punti critici che sottolinea anche a margine del convegno Tutto Pensioni organizzato dal Sole 24 Ore, in cui non ha usato mezzi termini. Questa manovra aumenterà il debito implicito. Il debito implicito è l'insieme degli impegni presi dallo Stato nei confronti degli attuali contribuenti, degli attuali pensionati e anche dei contribuenti futuri. Quindi se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore, si sta implicitamente dicendo che si taglieranno le pensioni. Sottotiro nel suo intervento soprattutto le misure in cui la manovra va a aumentare, dice Boeri, la spesa pensionistica, aumentando la generosità di trattamenti a categorie che hanno già beneficiato in passato. Mentre in Italia c'è un problema molto serio di povertà, raddoppiata negli anni della crisi nella fascia al di sotto dei 65 anni. Differenze di trattamento poi macroscopiche anche nella stessa generazione. Non resta che informare i futuri pensionati, dice Boeri. A febbraio l'INPS invierà 150.000 buste arancioni agli interessati all'APE volontaria, all'anticipo della pensione sull'APE sociale. Al giudizio positivo di Boeri fa eco Stefano Patriarca, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, che difende tutta la manovra, in cui dice ci sono forti elementi di equità. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La politica italiana, la legge elettorale al centro della scena in vista della decisione di domani della Consulta. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, attesa per la sentenza della Consulta sull'Italicum, ma non è detto che la Corte Costituzionale intervenga sulla questione, potrebbe infatti rimettersi al Parlamento, perché la legge disegnata da Matteo Renzi era congegnata per un ordinamento che non prevedeva il voto al Senato. La vittoria del no al referendum ha lasciato il bicameralismo paritario, perciò intervenire su una legge valida solo per la Camera sarebbe un nonsense. E quindi è improbabile che la sentenza attesa per domani possa accelerare la strada verso le urne. La principale questione contestata comunque riguarda il ballottaggio, il secondo turno in cui si sfidano le due liste che hanno ottenuto più voti ma non hanno raggiunto il 40% al primo turno. In teoria una lista che ha ottenuto solo il 25% può accedere al ballottaggio e ottenere la maggioranza assoluta dei seggi anche con una platea minima di votanti. Il premier Paolo Gentiloni spera che dopo la sentenza ci sia un dialogo tempestivo tra i partiti, ma Movimento 5 Stelle e Lega vogliono andare subito al voto per timori di inciucio. Al Senato infatti attualmente in vigore il Consultellum, la legge elettorale uscita dopo le modifiche della stessa Consulta al Porcellum, sostanzialmente un proporzionale con sbarramento fino all'8%. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo punto. Siamo alla giornata sportiva di ieri e ti chiederei, caro Dario Ricci, buongiorno innanzitutto, buongiorno, ciao, buongiorno. Di parlarci, ma non perché sia un'idea mia, ma perché ne abbiamo parlato prima di entrare in trasmissione, di parlarci di talento. D'accordo, sì, di parlare di talento. Vai. Beh, è stata la domenica della grande bellezza, del talento, perché dall'Australia abbiamo visto il talento infinito, immaginifico di un signore svizzero che a 35 anni e dopo 6 mesi di stop ancora psicologicamente, direi, poi non lo so chi lo vincerà questo torneo, ma psicologicamente, emotivamente è il grande dominatore del tennis mondiale, quel Roger Federer che al quinto set batte il numero 5 del mondo Nishikori e conquista i quarti di finale contro quello Zverev, Misha Zverev. E poi che bello vederlo giocare. Sì, è sempre bello. Sì, perché è un po' la risposta agli altri pur grandissimi campioni, no? Quello che a loro costa un'immane fatica a lui viene naturalmente, è veramente la leggerezza e non sì. A caso a 35 anni può fare quelle cose, proprio perché il talento è più forte della fisicità. Senti, lato calcio invece? È forse la stessa chiave di lettura, perché è la scelta di Max Allegri. Abbiamo avuto la prova che ascolta Effetto Giorno, Simone, soprattutto per la nostra soddisfazione, ma scherziamo, ma lo dicevamo l'altro lunedì, no? Chiedevamo alla Juve dicevamo che era impossibile rispondere solo con la grinta, servivano risposte tecniche. Che fa Allegri? Schiera il 4-2-3-1 con tutte le sue stelle e occhio che se questi 5 si trovano anche simpatici il pallone viaggia a una certa velocità, no? Dybala, Higuain, Quadrato, Mandzukic e Pjanic. Dall'altra parte però vedo già, e ti segnalo, ma già ce l'avrei segnata con circoletto rosso sull'agenda, la data del 5 febbraio, cioè Juventus-Inter, l'altra squadra cool del momento, quest'Inter che sei vittorie consecutive. Grazie a Pioli, l'umile operaio della vigna, però guarda che ti sta facendo. Vedremo. Grazie Dario Ricci, grazie. Altre informazioni sportive e dibattito ovviamente a partire dalle 14 in tutti i convocati, traffico con un po' di ritardo e poi torniamo su un po' di emergenze, ma anche per parlare di questa decisione, su queste dichiarazioni della Commissione Grandi Rischi che stanno creando molte preoccupazioni, soprattutto una serie di sindaci del centro Italia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria, abbiamo parlato di quello che succede in Abruzzo e abbiamo parlato dell'INPS, di Boeri che sostanzialmente attacca il governo, e come avete sentito ci siamo occupati anche di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e ricominciamo proprio dal maltempo per una serie di aggiornamenti piuttosto rapidi. Enzo Bianco, sindaco di Catania, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, ho visto che è stata allagata la zona industriale di Catania. Beh, guardi, ci sono state 12 ore di pioggia straordinaria su tutta la fascia ionica orientale della Sicilia, con una precipitazione persistente per circa 12 ore. Pensate che in alcuni paesini dell'Etna o piccoli comuni come Nicolosi sono piovute qualcosa come 250 mm d'acqua. La cementificazione selvaggia di questi anni ha fatto sì che tutta l'acqua che piove sull'Etna scende naturalmente in città. La zona industriale di Catania è purtroppo costruita in un vecchio pantano e ha subito dei danni. Naturalmente noi stiamo intervenendo, anche se la competenza non è strettamente del comune, qui in Sicilia la competenza in materia di zone industriali è di un ente regionale che purtroppo funziona come tutte le burocrazie regionali. Abbiamo presente. Sì, stiamo lavorando però con modo assolutamente serio per ridurre i danni, abbiamo mandato pompe idrovore e voglio dare una notizia importante agli operatori industriali che lavorano nell'università con passione e con entusiasmo. Abbiamo inserito nel patto per Catania firmato col governo un finanziamento straordinario di circa 15 milioni di euro per una serie di interventi che riguardano proprio la zona industriale di Catania. E la messa in sicurezza, l'illuminazione e anche interventi dal punto di vista idraulico, e sono soldi immediatamente spendibili. Abbiamo i progetti, entro 3 o 4 mesi dovremo fare la gara e sistemare questa vicenda purtroppo annosa e insopportabile. Grazie Enzo Bianco, sindaco di Catania, per essere stato con noi. Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, ma buongiorno. È possibile? Ci sono ancora 6.500 utenze senza elettricità nel teramano. A me sembra incredibile, da una settimana, 10 giorni, quant'è? No, non da una settimana. Oggi siamo all'8° giorno. Sì, sono ancora tante, sono troppe, non tante, sono troppe. I cittadini sono esausti. Il sindaco Bianco parlava del nucleo industriale e dei problemi, giustamente, che lui ha avuto. Noi qui il nostro sistema industriale è assolutamente in ginocchio. È in ginocchio perché non tutti hanno l'energia elettrica, però i gruppi elettrogeni che vengono posizionati a volte non sono sufficienti. Quindi il sistema economico è in ginocchio, ma qui noi abbiamo problemi delle abitazioni, abbiamo problemi dei singoli cittadini che sono da 8 giorni oramai senza luce. Io non riesco, il mio telefono, diciamo, è come dire, bolle dalla mattina alla sera per i granuli telefonate di gente che non ce la fa davvero più. Perché ma è stata, sono state almeno raggiunte queste persone? Gli sono stati portati generi di conforto? No. Non, sì, le abbiamo raggiunti, però li abbiamo raggiunti quasi tutti. Purtroppo sono 2 giorni che... Quasi tutti? Sì, quasi tutti, perché alcuni li abbiamo raggiunti con altri mezzi, perché dicevo, gli elicotteri sono 2 giorni che non possono volare. E quindi stiamo sfruttando i mezzi a terra, bruco, piuttosto che sci, piuttosto che ciaspole, piuttosto che motoslitte, e raggiungiamo questi posti più impervi, lontani, diciamo in alta montagna, dove portiamo i viveri. Alcuni paesi sono stati evacuati, evacuato Castelli, evacuata Prati di Chivo, perché non si riescono a raggiungere alcuni paesi. C'è il rischio valanghe, perché la neve è tantissima, e adesso sono cominciate le frane. Come era prevedibile, a Teramo già è partita la prima frana su un quartiere in collina della città, e stamattina abbiamo dovuto chiudere una strada. E la situazione dell'emergenza continua, e adesso si sostituisce la neve, si sostituirà la neve quella delle frane e l'aumento del livello dei fiumi, tutte certo. Queste piogge, perché le piogge si scioglie la neve, naturalmente. Allora io la ringrazio, Maurizio Brucchi, sindaco di Teramo. Staremo in contatto con voi per capire quello che succede. Voglio salutare anche Nando Mismetti, che è sindaco di Foligno, tra l'altro presidente della provincia di Perugia. Mismetti, buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Abbiamo trovato sulle agenzie una sua dichiarazione abbastanza forte nei confronti della Commissione Grandi Rischi, la quale Commissione Grandi Rischi, lo ricordiamo, ha lanciato un allarme, ha detto attenzione, in una area che in realtà è piuttosto vasta e comprende anche le zone dalle quali è partito il sisma del 97, quello che fu così distruttivo verso la vostra città e quelle aree, in quest'area piuttosto vasta potrebbe arrivare un terremoto molto forte tra il 6 e il 7 di magnitudo. E lei in questo momento, per questo tipo di comunicazione, sta raccogliendo ovviamente forti preoccupazioni da parte dei suoi cittadini, no? Ma quello che ho detto questa mattina lo risottolineo, cioè la comunicazione è stata una comunicazione terribile, che ha fatto riaprire ansie e preoccupazioni che sono più di quello che sono il dovuto. Ora, se ci sono elementi certi, ci dicano quali sono e i provvedimenti anche che devono essere adottati, perché in questa maniera non si fa che altro che alimentare una situazione di allarme generale, a cui poi i sindaci, secondo chissà quale quale impostazione e quali provvedimenti dovremmo prendere, così come ha fatto il sindaco di Leonessa, che ha chiuso tutte le scuole e dicendo beh, le riaprirò quando qualcuno me lo dirà di riaprire. Cioè, questo è un sistema impazzito. Ora capisco che siamo dentro una crisi sismica che è partita ad agosto, ma vorrei dire che noi siamo a 20 anni dal nostro terremoto. Il nostro terremoto iniziò agosto-settembre del 97 e è finito aprile del 98. Quindi che siamo ancora dentro un periodo che ci sta, che ancora continuano eventi anche di una certa consistenza. Ma detto questo, uno si aspetta che da una commissione grandi rischi ci siano indicazioni anche di certezza e comunicate in una certa maniera. Certo. E noi lo veniamo a sapere dalle televisioni, perché questo è, poi stamattina è vero, è arrivata questa mattina la relazione della commissione mandata alla Protezione Civile Regionale. Questo io credo che è un modo veramente irrazionale di gestire una situazione che già per se stessa, insomma, no? È abbastanza complicata, perché oltre a evento terremoto, ascoltavo prima il sindaco di Teramo, cioè, si è messo insieme anche evento, no? dovuto alla neve, con tutto quello che ha creato di disagio in tantissimi cittadini in realtà. La ringrazio, grazie a Nando Mismetti, sindaco di Foligno e presidente della provincia di Perugia, e tra l'altro Vincenzo Miglietta ha raggiunto il sindaco di Leonessa, che ha deciso di chiudere le scuole in seguito a questo allarme. Beh, sentiamo che cosa ha detto. Queste situazioni vanno gestite non con i lanci d'agenzia sicuramente, e poi però bisogna anche stabilire quelle che sono le mosse successive. A questo comunicato manca un pezzo, manca il da farsi. Le dico, io ho un centro storico, lo devo evacuare, non lo devo evacuare, se sì, devo allestire nuovamente un campo. Cioè, non si può pensare che un territorio marginale o che comuni, non nel mio caso, ma più piccoli, di 400-500 abitanti, si possano trovare da soli a gestire questa situazione. Questo credo che non sia giusto, quindi ho preso atto dell'allarme, ho fatto quello che ho ritenuto fosse giusto come padre di famiglia, cioè se le mie scuole sono sicure non è detto che lo siano con una magnitudo di quel livello, quindi mi sono fermato, adesso ho già dato incarico a dei tecnici per verificare quanto queste scuole possono resistere a una magnitudo così grande, ma nel contempo poniamo l'attenzione agli enti preposti e superiori per costruire insieme un percorso che dia risposte all'emergenza e anche al pericolo. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre per i mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ondata di piogge torrenziali colpisce Sicilia e Calabria, allagamenti, strade sprofondate, smottamenti, una vittima. E si scava ancora tra le macerie dell'hotel Rigopiano in Abruzzo, ancora famiglie isolate, 6.500 il numero di utenze elettriche distaccate nel Teramano. Intanto fa discutere l'allarme della Commissione Grandi Rischi su un possibile forte sisma, allerta sulle dighe, proteste come avete sentito dai sindaci. Il presidente dell'INPS Boeri attacca il governo, con la manovra cresce il debito, si scaricano gli oneri sulle generazioni future. Forte balzo dei generali in borsa, che guadagna oltre il 6%, e andiamo proprio sui mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Prima di chiudere abbiamo un paio di minuti, come sapete l'edizione del lunedì di Effetto Giorno è un po' più corta, abbiamo un paio di minuti, andiamo all'estero iniziando dalla Francia, dove sarà ballottaggio fra Benoît Hamon, rappresentante dell'ala sinistra del Partito Socialista, e l'ex primo ministro Manuel Valls, risultato del primo turno delle primarie socialiste. L'analisi di Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Chi sarà il candidato dei socialisti alle presidenziali francesi di fine aprile? L'outsider Benoît Hamon, leader della sinistra del partito, che a sorpresa ha vinto il primo turno delle primarie e affronta il ballottaggio di domenica prossima da super favorito, o l'ex premier Manuel Valls, esponente dell'anima moderata e socialdemocratica? Nessuno dei due sembra peraltro in grado di impensierire i veri pretendenti all'Eliseo, la presidente del Front National Marine Le Pen, il candidato della destra François Fillon e in forte ascesa l'ex ministro dell'economia Emmanuel Macron, la star dell'era post-partitica. La vera domanda è quindi un'altra: sopravviverà il Partito Socialista a questo shock al fallimento della presidenza Hollande. La bassa partecipazione alle primarie mostra la disaffezione dei suoi militanti ed è molto probabile che i seguaci dei due avversari del secondo turno non appoggeranno il vincitore, preferendo votare per Macron o per il leader della sinistra radicale, Mélenchon. Lo scontro tra due visioni della politica e del mondo palesemente inconciliabili potrebbe quindi decretare la fine del PS, almeno nella forma che gli è stata data da François Mitterrand nel 1971. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. E poi la Siria ancora in cerca di una linea comune per la trattativa con il regime di Damasco. L'opposizione siriana è da oggi ad Astana per colloqui organizzati da Russia e Turchia. Via libera al negoziato per la Siria nella capitale kazaka Astana, presenti gli attori principali che riflettono il mosaico di guerra degli ultimi 5 anni, con l'esclusione delle fazioni armate del radicalismo islamico bollate come terroriste. 15 dunque le delegazioni presenti per il campo delle opposizioni e immediato il loro rifiuto di negoziare faccia a faccia con il governo di Damasco, una questione forse più formale che altro, visto che poi tutti si sono seduti al tavolo ricorrendo ai mediatori. Russia, Iran e Turchia in primo luogo dunque a parlare per conto di Damasco e dei ribelli ed aprire la trattativa. Presente invece l'inviato speciale ONU per la Siria, Staffan de Mistura, e c'è anche l'ambasciatore americano nel paese dell'Asia centrale, George Kroll, uno specialista delle dinamiche regionali che negli anni di servizio tra Mosca, Kiev e Minsk ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'ufficio Asia centrale del Dipartimento di Stato. Insomma, una presenza discreta ma significativa che potrebbe aprire ad un maggior ruolo di Washington in un processo che l'ha finora vista decisamente ai margini. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.